Non leggo più niente. Mai niente, eh? Libri, giornali, riviste. Un cartello di pubblicità nella strada. Tu non lo leggi? Non lo leggo. Non leggo una mazza e sto benissimo. Dice, fatti vedere, parla con qualcuno. Io non parlo proprio con nessuno, io mi faccio i cazzi miei. Piace, diretta a me. Chiuditi a riccio. Non leggere più niente. E ti basta tutto. Manca il Corriere dello Sport, posso leggere? Niente! Tabula rasa. Chiuditi a riccio. Chiuditi. Radio Onda Rossa, Tabula Rasa, si torna sulle frequenze del 87.9 della radio che da 35 anni occupa l'etere romano e laziale. Torna una puntata particolare di Tabula Rasa perché non sarà la solita corsa di interviste, due, tre a trasmissione così con ospiti vari, perché oggi gli ospiti li abbiamo in carne ed ossa e sono tre tutti insieme, li andremo a presentare tra qualche minuto. Visto che oggi condurremo in due la trasmissione, in tre sono io, sono gli ospiti, la redazione è piena di gente, siamo pieni come novo, dunque dateci ancora qualche altro istante con un'altra traccia e poi torneremo nuovamente in diretta, andremo a svelare chi sono gli ospiti. Coughing, cool boy playing, fat man running, old fool walking, dead man coughing. Boy said he had the heart to put it. Eccoci qui, buonasera nuovamente Radio Onda Rossa, buonasera anche a chi ci sta, anzi a chi è collegato allo 06 49 17 50 perché abbiamo anche un ospite telefonico. Andiamo a presentare, anzi aiutami a presentare questa trasmissione perché oggi mi sento più ospite degli ospiti che abbiamo perché non ho proprio il polso della situazione. Sì, e buonasera a tutti. E in effetti stasera abbiamo una puntata un po' particolare, perché abbiamo un gruppo vero e proprio in carne ed ossa, o quasi, nel senso che tre quarti sono qua con noi fisicamente, un quarto ce l'abbiamo in collegamento telefonico. E è una puntata particolare perché questo gruppo si è in effetti meritato una puntata interamente a loro dedicata, e loro sono attualmente una delle realtà, uno dei collettivi di scrittori più presenti, penso, sulla scena territoriale della letteratura romana, in particolare per quanto riguarda appunto il rapporto diretto con il pubblico della capitale. E non solo questo, loro hanno anche un blog che, statistiche alla mano, attualmente è fra i 20, se non sbaglio, blog più seguiti di letteratura in Italia. Per cui ve li presento, loro sono scrittori precari. Sì, però allora, come si chiama il blog? Cominciamo a dare pure qualche riferimento, no? Il blog, il loro blog lo trovate su www.scrittoriprecari.wordpress.com. E qui in studio abbiamo tre dei membri fondatori, Simone Ghelli. Ciao Simone. Ciao a tutti e a tutte. Poi abbiamo Luca. Salve. Piccolino. Ciao Luca. Salve. E subito Luca si contraddistingue perché spostalo piano, pure tu non ti prepari, fa rumore quello, sposta, ma prima sgancialo e passarlo fisicamente, no? Ma guarda, io capisco, allora Luca, noi ci conosciamo anche da un po' di tempo, non posso insultarti radiofonicamente, parla vicino al microfono, sì vorrei, vorresti, potremmo tornare, parla vicino al microfono. Così almeno, no, più che altro facciamo un favore a chi ci ascolta, allora, regaliamogli un buon audio. Continuiamo con la presentazione, perché dopo Luca Piccolino. Dopo Luca Piccolino c'è Andrea Cuffami, buonasera a tutti. E poi manca il quarto. Scusa. Il quarto che sta qui collegato telefonicamente, che pensava che l'avessimo abbandonato. Ciao. Sì, sono, buonasera a tutti e a tutti, sono Gianluca Liguori, saluto ragazzi, grazie per conoscere. Ciao Gianluca, come va in Umbria? Ciao Edoardo, tutto bene, sono qui a Friulane dalla reazione di Friulicidenza. Bene, che in effetti ricordiamo che Gianluca Liguori non può essere presente fisicamente stasera perché collabora a Frigolandia con Il Nuovo Male, che è appunto la nuova edizione curata e diretta direttamente da Vincenzo Sparagna del supplemento a Friciderra. No, adesso è in edicola come testata autonoma. Giusto, sì. Giusto. Ogni mese in edicola, sì. Grazie per la puntualizzazione. E per cui, per iniziare un po' a parlare con questo collettivo, che come vi dicevo, attualmente è fra i più presenti, penso, sulla scena sociale romana per quanto riguarda l'ambito letterario. E io inizierò a fare così qualche domanda un po' più tecnica, diciamo, rimbalzandolo un po' fra lo studio di Roma e Frigolandia, a Simone Ghelli e a Gianluca Liguori, e poi via via che ci inoltreremo piano piano a conoscere la realtà e i vari membri del gruppo, magari intervalleremo con qualche lettura di Angelo Zabaglio e di Luca Piccolino. Per cui, così, per iniziare, magari iniziamo con Simone. Volevo insomma sapere un po' da te come nasce questa realtà, che, se non sbaglio, è una realtà che c'è dal 2009, no? in particolare sulla scena romana, ma così, rovistando un po' il vostro blog, ho visto che sempre nel 2009 avete fatto un tour che vi ha portato in diverse città d'Italia. E per cui, ecco, se ti andavi a raccontarci un po' come nasce Scrittori Precari e qual è se c'è il senso che vi ha spinto a dare vita a questa avventura, e così in chiave generale quali sono le attività principali che questo gruppo porta avanti. Sì, allora effettivamente noi siamo nati nel dicembre del 2008, io e Gianluca Liguori appunto abbiamo avuto questa idea davanti a un tavolo e a un bicchiere di vino al Pigneto, cioè è andata proprio banalmente così la storia, perché venivamo da delle esperienze fondamentalmente maturate sul web e sentivamo un po' l'esigenza di ritrovarci fisicamente, dunque di dare corpo alla rete anche fuori dalla rete. Cioè questo è il, diciamo, è il punto d'inizio di questa avventura. Il blog nasce in realtà dopo, nasce nel 2009 appunto, come hai ricordato tu, ed è diventato un supporto fisso a quella che poi è l'attività dal vivo. Sul blog insomma ospitiamo tantissimi altri scrittori e scrittrici, e ci piace dare spazio soprattutto alla narrazione, non tanto alle polemiche letterarie che molto spesso animano altri spazi. Per quanto riguarda il tour che tu ricordavi, è nato in seguito appunto a una serie di appuntamenti romani, per la precisione proprio qua a San Lorenzo, al Simposio, che era un locale gestito da Raffaele Mozzillo, che adesso non lo gestisce più e che era diventato un vero e proprio luogo di incontro per molti scrittori romani. E in seguito a una serata che abbiamo chiamato Maratona Letteraria, perché è durata veramente dalle 18 a mezzanotte passata, abbiamo deciso di partire per questa avventura con la macchina di Gianluca, rigorosamente GPL, 20 all'ora. 20 all'ora, mi ricorda Luca. E in quel settembre del 2009 abbiamo toccato varie città, Napoli, Bologna, Firenze, Milano, e poi siamo riscesi in delle situazioni non cittadine assolutamente. Una è la casa del Cuculo in provincia di Forlì Cesena, è un casolare dove Simone Rossi, un altro scrittore che ha fatto altre cose con noi, ci ha invitato. E poi appunto a Frigolandia, dove attualmente Gianluca sta. Mi piacerebbe sapere cosa sta facendo. Infatti, Liguori conferma questa versione dei fatti o smentisce? Sì, confermo tutto, tranne volevo, siccome vabbè, Simone è il più anziano, quindi la memoria inizia a perdere colpi, la maratona letteraria era l'anteprima del tour. Ecco, tutto questo per la precisione. Questo per la precisione, ovviamente. Molto importante. Per gli storici. Per gli storici e per la gloria. Bravo, bravo Liguori. Grazie, grazie. E quindi, in effetti, un aspetto che tu già hai citato in questa introduzione è appunto il fatto che, insomma, mi sembra che una delle cose che vi caratterizza di più rispetto anche a altre realtà sia quella di cercare costantemente un rapporto diretto col pubblico e quindi una condivisione sociale della lettura. E in questo senso, magari stavolta passiamo la parola a Gianluca, e così, sempre rovistando un po' sul vostro blog, mi ha colpito quando a un certo punto parlate di centralità della scrittura e della sua condivisione. Mi ha colpito perché l'ho trovato qualcosa che in un certo senso contrasta, o che perlomeno mi sembra molto non convenzionale rispetto a quelle che sono un po' le attitudini che attualmente ci sono riguardo a questo tema. E per cui, ecco, ero un po' curioso di sapere cos'è per voi e cosa significa per voi parlare oggi di centralità della scrittura e della sua condivisione in termini e in spazi sociali. Ecco, noi in effetti l'idea era appunto questa di riprendere un rapporto con questo lettore, che poi tra l'altro noi all'inizio, essendo tutti autori praticamente sconosciuti, vabbè, quello lo siamo ancora tuttora, pubblicando con piccole case editrici, nasce appunto questa idea di riprendere tutti insieme la figura dello scrittore e riportarla per strada. Quindi le letture in pubblico ci sembravano il modo migliore per ritoccare, riparlare con chi ci ascolta, e allo stesso modo questo lavoro veniva svolto su internet con appunto la possibilità, attraverso i commenti, attraverso i social network, di avere un rapporto costante e diretto con il lettore. Ecco, questa dimensione sociale che voi cercate di condivisione pubblica dei vostri lavori, ti sembra che abbia avuto un'influenza positiva anche sul seguito che avete avuto anche poi a livello mediatico, nel senso del blog eccetera, che appunto leggevo qualche giorno fa, tuttora tra i 20 blog più seguiti, no, in ambito di letteratura? Sì, ma non solo, la cosa più interessante è stata soprattutto il fatto che ai posti dove noi andavamo a fare reading iniziavano a praticare questo spettacoli di reading quasi come appuntamenti settimanali, e non solo a Roma, dove siamo stati oltre al simposio di cui parlava Simone, a tantissimi altri locali e centri sociali, ma anche fuori, perché in molti posti a Firenze, allo Zoom a Bologna, si è intensificata proprio l'attività. Infatti ricordo che gli autori fiorentini che vennero ospiti lì dissero: non avevamo mai visto tante persone a un reading a Firenze. Uh-huh. E da lì c'è stata sempre più affluenza e sempre più attività letteraria, che credo sia una cosa fondamentale, proprio perché sì, comunque è un momento dove ci sono presenti e vive tantissime realtà, piccole realtà, che cercano di fare al meglio un'opera di condivisione, di raccontano storie, e c'è bisogno appunto di questo fermento che per fortuna sia a Roma che nel resto dell'Italia inizia sempre a farsi sentire. Certo, c'è ancora tanto da lavorare. Ecco, in questo senso, Simone, mi sembra anche che il vostro gruppo abbia fatto anche tutto un lavoro di collante in qualche modo, no? Fra realtà diverse. Cioè, mi sembra che ci sia anche una ricerca di aprirsi, di andare oltre il vostro gruppo stesso per cercare anche collaborazioni, contatti e insomma vedere un po' cosa succede in giro nel panorama letterario italiano. Sì, la cosa bella è che la rete si è sviluppata sul serio, anche se è una rete di piccoli nodi, però vorrei ricordare, ci sono blog e spazi con cui ormai collaboriamo in maniera più o meno fissa, da precariamenti al lavoro culturale, ma sono tantissimi i blog e gli spazi che sono nati in quella che poi viene definita l'era del web 2.0. E quando nasce un nuovo blog è sempre un bellissimo evento, al di là di tutto, cioè perché significa comunque che c'è la necessità di dare parola a qualcuno, e l'importante naturalmente, poi le dinamiche del web, si sa, sono strane, molto spesso poi, soprattutto in letteratura, frequentemente si butta un po' in polemica, dunque c'è il rischio di diventare autoreferenziale. Noi da questo tipo di dinamiche abbiamo sempre cercato di tenerci lontani, preferiamo le storie, punto, e dunque che poi sia il lettore a prendere ciò che la storia gli dà e le conseguenze che può provocare, non tanto mettersi insomma a discutere su cose che sono internos, che conosciamo già senza bisogno di renderle pubbliche. Ecco, e avete prodotto state provando a produrre, se non ho capito male, anche un film che si chiama Trauma Cronico, o di cui c'è un trailer sul blog, forse l'ho preso un po' larga, non lo so. Sì, però in effetti la curiosità era, la domanda era proprio di cosa si tratta. Hollywood non è nelle vostre corde. No, però in realtà, allora, Trauma Cronico, e qui così almeno chiudiamo anche quella che è la sezione storica, è nato dopo il tour, appunto, grazie a un'idea di Dimitri Chimenti e Andrea Montagnani, che inizialmente volevano fare un documentario su scrittori precari. Poi, visto che il tempo è quello che è, tutti noi ci troviamo in una situazione comunque di lavori che cambiano, che non ci permettono di programmare più di tanto quello che è il nostro futuro, per cui da qui poi possiamo aprire anche una parentesi sul perché di questo nome. E appunto Dimitri Chimenti e Andrea Montagnani hanno deciso di usare queste immagini per associarle ad uno spettacolo teatrale che è stato appunto Trauma Cronico, e che ha esordito a Colle Valdelsa, che è appunto la terra dei registi, e che poi siamo riusciti a portare anche a Roma, al Forte Prenestino, al Teatro Abarico. Siamo stati pure al nord in una tappa in provincia di Brescia. Purtroppo il teatro è uno spazio ancora più difficile da affrontare, perché ci sono delle dinamiche particolari, ci sono dei costi che la letteratura non ha, per cui ci siamo trovati anche a dover fronteggiare delle problematiche tecniche e materiali che erano a noi sconosciute. Attualmente diciamo che lo spettacolo è rimasto nel cassetto, non siamo riusciti a fare più di queste date, ma questo non toglie che magari in futuro riusciremo a riprenderlo. E lo spettacolo fondamentalmente cercava di coniugare quella che è la nostra realtà lavorativa, dunque la nostra quotidianità, con il nostro lavoro da scrittore. A me piace chiamarlo lavoro, anche se non è retribuito. Ecco, a proposito proprio di questo, tu prima dicevi, aprire una parentesi su questo nome, scrittori precari, magari possiamo rimbalzare un attimo la linea a Frigolandia. In effetti, sì, scusi. No, finisce, perché poi io ero curioso, perché esistono scrittori non precari, perché penso che è una sorta di, sono pochi, è un gota di scrittori non precari, perché la maggior parte almeno delle persone che intervistiamo qui comunque vivono una situazione abbastanza di precariato. Sì, guarda, questa è una domanda su cui siamo preparati, perché ce la fanno sempre. La risposta bene. La risposta bellissima la trovate sul nostro blog, ed è estrapolata dal libro, dalla definizione che il libro ha dato di noi, che involontariamente forse ci ha fatto un favore, perché recita appunto: saranno anche precari, ma non sono di certo scrittori. E questo significa che, invertendo i termini dell'equazione, diciamo che noi volevamo proprio puntare il dito sulla nostra condizione lavorativa ancor prima che artistica, perché ciò che ci accomunava quando ci siamo conosciuti e ci accomuna tutt'oggi è il non avere comunque una prospettiva di lavoro fissa, come tante persone ormai oggi hanno. E dunque non scrittori precari nel senso che è un discorso romantico dello scrittore che è precario della vita, eccetera eccetera, non era questo, era proprio un concetto molto più materialista, legato appunto al lavoro, e dunque i lavori che facciamo. Fame e disperazione. Come? Gianluca? Fame e disperazione. Sì, in effetti è un aspetto che anche in maniera divertente mi sembra emerga anche dal trailer di Trauma Cronico, e lì in effetti mi sembra che proprio cercate un po' di raccontare la vostra esperienza di passaggio dalla categoria, per così dire, di lavoratore precario a quella di scrittore precario. E ero anche curioso di sapere, visto anche il contesto in cui siamo, cosa vi ha spinto a cercare un'emancipazione, una possibile emancipazione, se così la possiamo definire, prima di tutto nella scrittura e nella sua condivisione, piuttosto che magari più direttamente o più strettamente in un impegno sociale o politico, anche se mi sembra che comunque il gruppo si muova anche un po' in ambito sociale. E in questo senso ero curioso di sapere, secondo voi, quale può essere oggi il rapporto fra la scrittura e gli scrittori e l'impegno sociale, politico, ecco, cioè, dal vostro punto di vista come vi vivete un po' questa situazione, se in qualche modo ve la vivete, ecco. Uno dei modi risponde comunque. Pensavo fosse il Liguori che dovesse. Io pensavo fosse sì, Simone, appunto, ci sta pensando. Sono tutti in silenzio, rigoroso silenzio. Era la domanda trabocchetto. Comunque, una cosa che ci distingue è la dissociazione. Noi siamo sempre dissociati anche fra di noi, per cui questa, la pausa. Siamo quattro individui totalmente differenti. Angelo addirittura ne è due. Io ne so due, è vero. Dai, Liguori, rispondi. Sì, Liguori, non strozzare le galline di Sparagna. Rispondi alle domande. Infatti, visto che è da Frigolandia, ci sembra adatto, più adatto a rispondere. Pronto? Sì, ciao Gianluca, eccoci, ci senti? Aia. Pronto? È una scusa perché cos'era quest'aia? È un classico. È andato. Sono i servizi che... Vabbè. È un boicottaggio, che è un boicottaggio chiaro e tondo. Vabbè, rispondo io? Ma è un momento molto poco radiofonico questo, dunque bisogna capire se dall'altra parte, in Umbria, c'è ancora qualcuno al telefono o no. Mi pare di non no. Mi sembra di no, dunque magari vi sembra di no, dunque magari a questo punto voi rispondete, sì, sì, voi rispondete e noi proviamo nuovamente a rimetterci in contatto. Sì, diciamo che noi possiamo essere un po' come dire, comodamente inseriti in un filone che si può dire di letteratura a vocazione civile, ma più che per gli argomenti che narriamo, proprio per le modalità con cui cerchiamo di trasmetterli. Una cosa ad esempio che ci ha contraddistinto fin dall'inizio è stata quella di non puntare soltanto sullo spazio libreria come spazio dove organizzare le letture, ma anzi ci siamo mossi in contesti dove non c'era una preparazione in questo senso, e ci piace tutt'oggi, almeno personalmente preferisco quando sono invitato in un contesto non tipicamente letterario a raccontare, perché sempre per il motivo di cui parlavo prima, mi piace comunque, cerco di non cadere nel tranello dell'autoreferenzialità che mi pare nella letteratura nostrana sia sempre dietro l'angolo, e sicuramente con uno come Andrea Coffami il rischio poi non c'è, perché è il più dissociato del gruppo. Intanto Gianluca penso sia stato ripescato, ma sentiamo cosa ha da dire Andrea Coffami su questo. No, su cosa? Pronto? Allora, abbiamo di nuovo Gianluca al telefono, scusateci se abbiamo un po' di qualche problema così tecnico. €19 non ha... Sta vendendo il cellulare. Sta vendendo il cellulare a €19. 4 euro. Sì, è la verità, l'ho comprato 4 anni fa, funziona ancora. Ma forse non sa con chi sta parlando, secondo me. Pronto? Pronto, sì, sta chiacchierando tranquillamente. Dunque, per i fatti suoi. Vabbè. Pronto? Eccoci. Oh. Allora, sicuramente ti sei perso buona parte della domanda che ti avevamo fatto prima e che hai fatto finta di non voler, cioè di non rispondere, no? Perché è cascata la linea e via dicendo. Si parlava appunto, insieme a qui all'oggi al mio socio radiofonico, del da dove nasce il nome Scrittori Precari. Ci è stato ampiamente spiegato. Tra l'altro qui sono talmente precari che mi sono in tre, ma uno parla e gli altri due così, uno annuisce, l'altro sorseggia acqua. Pronto? Fabrizio, ti sento, dimmi. Oh, allora. Ho problemi di, non so se di campo o che. Secondo me di testa. O di ricezione, sì. No, sì. Probabile che sia un problema di ricezione. No, beh, comunque parliamo, chiudiamo questa la parte sugli scrittori precari, sullo spiegare da dove nasce il nome, perché poi altrimenti non se ne esce più, ci siamo incartati, ci stiamo continuando ad incartare. Si parlava degli spazi dove preferite tendenzialmente andarvi, ma neanche a esibire, è una parola bruttissima, a relazionare, perché mi sembra quasi che sia questo il vostro intento, sia una lettura che sia anche sia fruibile, sia appunto che sia un racconto simbiotico col pubblico, uno scambio, rapporto simbiotico col pubblico. No, questo non parla mai quando Luca parla. Luca Piccolino è il ferry bot del gruppo, no? Quello che non parla mai, ogni parola è una sentenza, come diceva Gassman nei soliti ignoti. No, però veramente è interessante questo aspetto, uscire dalle librerie, anche perché ormai le librerie vendono tutto tranne i libri, sono diventati qualcosa di enorme, e andare a raccontare in contesti più diversi possibili, giusto? Tu quale preferisci? Guarda, io per di più da quando abbiamo detto al Forte Prenestino, perché era un luogo che avevo frequentato sin dai primi anni romani e stavo sempre lì, magari dalla parte del pubblico, ed è stato un momento di forte emozione, appunto, anche da stare sul palco e raccontare le storie che avevo scritto. E sono, alla fine sono io, i posti che i centri sociali sono i posti, pur appunto frequentandoli, che dove mi trovo più a mio agio. Poi appunto anche pub ci troviamo in posti dove non è solito leggere, e con qualche birra di troppo è ancora, qualche birra in più diventa ancora più piacevole, e soprattutto si continua dopo le letture a chiacchierare con e conoscere il pubblico e sentire magari un parere, cosa pensano di quello che hai letto, oltre poi all'importanza per noi autori che il momento della lettura in pubblico è sempre un momento dove appunto ti ascolti, ti riascolti e riesci anche a capire come migliorarti, e questo il vantaggio di avere un feedback immediato col pubblico, credo che sia importantissimo. Perfetto, dopo aver sentito me un po' sorpreso, perché poi sentivo parlare di centri sociali quando poi almeno a Roma serate di reading sono abbastanza rare, non so se in altri posti d'Italia, però io volevo fare una precisazione, visto che mi è venuta in mente, c'è un altro gruppo che su Roma fa un lavoro simile al nostro e con cui collaboriamo spesso, che è Terra Nullius, ad esempio, sì, con cui abbiamo sviluppato anche una rete veramente territoriale, insomma, che anche loro sono molto presenti sul territorio. Loro uniscono pure la grafica, l'immagine, la musica, insomma, è qualcosa di complesso e che comunque ormai da quanti anni è, non lo so. Da più di noi sicuramente. Da più di voi, sono più grandi di voi. Sono i padri fondatori. Mettiamola così. Allora, fermiamoci un attimo, mandiamo un po' una traccia audio e poi magari rientriamo con una delle letture, perché non facciamo altro che parlare del fatto che voi amate comunque raccontare, leggere in pubblico così, e poi siamo in radio, abbiamo cominciato da mezz'ora e non abbiamo ancora ascoltato niente. Un po', sì, è un contrasto che ci fa abbastanza specie. Dunque, un attimo di pausa, un po' di musica e rientriamo tra pochissimo. Si stringeva tra un post sul postribolo. Ho un asso con il manico e ieri un trans amico ha confidato che lui ha freddo ad essere statico e anche un poco stitico per via del refrigerio di febbraio. Lui come un orario non orario al calendario. Postribolo uniforme di infedeli in sarramanico, più IVA senza prezzo che lo guarda con sospetto. Sospetto che il cafone sia italiano. Ho molto più rispetto per la scelta di Repetto. Postribolo disprezzo con il cappellaio matto, dico basta alla Zanitti ed è questo il giusto prezzo da pagare solo per ricominciare ad ascoltare Pappalardo. Polle Ferri con Marzullo. Se la vita è solo un sogno, tu marita ed io son moglio. Lei l'ha scritta ed io son foglio. Non è tutto oro quel che è raro, ed è raro umano est. Non è tutto oro quel che è raro, ed è raro umano est. Non è tutto oro quel che è raro, ed è raro umano est. Non è tutto oro quel che è raro, ed è raro umano est. Lo scalogno che mi parla è la mia sveglia che è in ritardo. L'ultima è l'ennesima Golden Virginia Vergine Virgilio.et che non telefona più a casa. È un film di fantascienza la bufera che continua. Se trago conseguenze da dedardi stile tratto. Ratto mano di fumetto neonazista. Se sei lista forse pubblichi il tuo libro recensito su rivista. Altrimenti asta la vista, vista l'asta. Ho comprato anche la tessera da buon artista. Rivista, mista, come un'insalata per chi non sta a dieta. Non importa analfabeta, l'importante è avere l'aria intestinale tanto messa nella festa, tra sorrisi deliziosi di parole che nascondono altruismo di altruismo l'altruismo. Non è tutto oro quel che è raro, ed è raro umano est. Non è tutto oro quel che è raro, ed è raro umano est. Non è tutto oro quel che è raro, ed è raro umano est. Non è tutto oro quel che è raro, ed è raro umano est. Dice amici, amici di chi? Di Titina di Filippo o di Filippo di Latina? Se non conosci l'ABC dirai soltanto parole a bambera. Come un programma di prima serata Rai, sai da Dio, ma Dio non lo sa, per pigrizia o perché gli conviene. Dipende da quanto vino bianco nelle vene, sostiene che al sosti un cartello da divieto di sosta costi meno che alla COP, ma la COP sei tu e quindi vendimelo. Se fai login qui non si entra con i cani, lascia fuori l'intintin e prendiamo il perignon e sto in gogna. Come bere birra di una vigna, lo squirtami di una fregna con il bimbo che ti frigna a fianco. Siamo franchi, sono ciccio, getto scarpe senza lacci, faccio traccio senza senso sensoriale. Sono altare del demonio, prego Dio che preghi Dio ritorni in vita. Sposalizio, dopo un tizio mette fede alla sua fine, ma prospetta un buon inizio tra catene di catene di catene di catene. Non è tutto oro quel che è raro, ed è raro umano est. Allora, rientriamo in studio 21:42, perché tu ci presenti perché? Questa lettura? Beh, intanto abbiamo sentito Postribolo, che faccio uno spot proprio, che vai. È un CD che si chiama, oddio come si chiama, Di Bocca in Bocca, che ho fatto insieme a Angelo L, Vertigo con Angelo L, scaricabile in rete. Roba tua, non sì, sì, sì, è roba mia, no, è scaricabile in rete e acquistabile se uno vuole dai suoi iTunes e tutto quanto. E invece questo è un, diciamo, un testo, una, un, chiamiamola poesia, che si chiama Link Correlati. Ho preso la base da Knaki, Knoki, non mi ricordo, comunque roba su Giamendo, roba in copyleft. E parla di quando vai su Google, cerchi una parola, poi ti porta un'altra parola e i link correlati. I link correlati. Sì, che non tutti i siti hanno. Quando sei pronto, quando vuoi, quando vuoi. Andiamo. Dalle scarpe di marca passando per le marche da bollo, dal bollo auto a Double Dragon a Puzzle Bubble, dalle bolle del Crystal Ball passando per il solco di un disco, dalla disco alla techno, dalla techno al buon liscio, dalla vodka con ghiaccio all'acqua liscia, dalla frizzante al chinotto, dal caffè ristretto al corretto, dal poliziotto corrotto al cerotto che cura il danno fatto, digerisco, dal sipario alla fine del primo atto, mi sollevo dalla poltrona in platea di teatro, dalla sensazione del tetro alla sensazione del vuoto, da indovina chi ai giochi MB, dalla BMX al cambio Shima, da una partita a Tetris al Tris in mano, dalla perdita di un amico caro al caro vita, dal rincaro del cetriolo al caro petrolio, dall'amico schivo all'uscio dalla del caro amico ti scrivo, dal giornalismo di Matrix alla panza di Obelix, dal risico al Trinity passando per l'oracolo, dal gin fiss al bis dopo lo spettacolo, da un brano di Samantha Fox o remix di DJ Shadow, da un'orchestra di muti ad una suoneria in polifonia, dai polifosfati ai polipi, dalle bracciole di pane ai cannelloni ripieni, dalle gullotte a mastelle, da pannella a mastelloni, da ninofrassica, da patantù, dal lampo di un lampo al fragore di un tuono, dal calcio a balilla al subbuglio al fusillo barilla, dal balilla al fascismo il passo è breve e senti come piove, dai giovani in lambretta con otto in pagella, dalla bidella al rettore passando per il ripetente, dal ripetente alla Gelmini, dai bocchini alle suore, dal monsignore all'onore, da Forza Nuova a Casa Pound, dal pound alla sterlina, dalla lira che prima c'era all'euro, dall'unieuro all'intercity all'eurostar, dal diretto al regista, dalla comparsa all'attore non protagonista alla star, dal dado di brodo al dado di fumo, da Babbo Natale al camino, da Michael Cimino a Natale sul Nilo, da Ezio Greggio alla pecora nera del gregge, da Eratrea al comunista, dal comunista alla lista nera, dalla bandiera del tricolore al calore, dal calore al calore di una ola, dalla curva degli stadio agli stadio, al gran figlio di puttana in radio, dalla costituzione agli articolo, da Tiziano al cantante neomelodico che spopola nel vicolo, da Scampia alla ferrovia, da Piazza Garibaldi a Napoli all'unirsi dei popoli, dalle malattie al propoli, dalla marcia di Topolino come suoneria, da Domenica Inna a Paperinic e da Topolino alla massoneria, dagli effetti collaterali dei medicinali alle droghe da legalizzare, dai codici subliminali agli animali trasformati in cartone, dal Giappone ai brani di Little Tony, da Tony Corallo al terremoto alla scala Mercalli, dal corallo al mare, dall'estate all'inverno, dalla neve al candore di un bimbo, dalle palle di neve alle bombe carta, dalla caduta del muro alla guerra in Iraq, dal kebab ad Al-Qaeda, dalla verità alla finzione, dalle notizie di regime ai mangimi per cane, dalle case chiuse alla mercificazione, dal lavoro fisso alla cassa integrazione, dalla PlayStation all'altalena, dal pattino alla barca a vela, dalla la satira vera, dalla censura all'underground, dall'underground all'even, da Melonarpo allo stile, dallo stile al nuoto, dal cloro al clero, dai bersaglieri agli alpini, dalle strage di stato ai cuori neri, da sentieri selvaggi a sentieri e da sentieri da sentieri alla valle dei pini, dalle valle verde ai calzini, dai piedi nudi al fetish, dal pissing al camshot, da hotshot a Buster Keaton, da Michael Keaton a Barton, passando per Batman, Ratman, Sandokan, dall'applauso dopo la venuta del messia alla suora in clausura, da sepoltura all'ora di religione, da bellocchio alla prigionia, da lucignolo alla libertà, dalla dittatura alla Cina, dagli arancino di riso agli aranci, dalle quattro stagioni di Vivaldi alla margherita tagliata a tranci, dai saggi francesi e dai francesi formaggi, da trattati di pace e dalla pace all'amore, dall'amore all'odio, da Cassovizza ad Asterix, dalle pozioni magiche Santoni in televisione, dalla cultura popolare alla fine del mondo, da un saggio sul nazismo ai libri gettati a rogo, bruciati da legno di faggio in sala di montaggio, da una canzone a Sanremo di Pino Donaggio alla canzone d'impegno, la canzone d'impegno al primo maggio, coi pugni chiusi nelle piazze, che stringono il poco coraggio. Rientriamo, prendiamo un attimo di fiato, cambiamo touch, traccia. Questo è un po' un monito per te, perché ora sta Luca Piccolino, che con cui stavamo dibattendo quale traccia mandare. Speriamo che questa di DJ Spooky possa andare. Il blockbuster, questo è il black magic blockbuster, chartbuster. Dimmi di quando eri una cerasa sorridente, invece di intasare quelle notti che restano sole con me ad aspettare il mattino. Ieri Maria ha visto quello che dietro agli occhi ho girato per nascondere, e segretamente ha sperato che non fosse quello che aveva visto. Quando non riesco a seminare l'ombra scura che mi segue, qualcuno se ne accorge. Che ne sai, il prete di un universo che si muove meccanico, senza emozioni, gira su se stesso e si riposa, rinnovando a ogni epoca la barbarie della storia. Che ne sai, il terapista di teste prese, inscatolate e sistemate sugli scaffali del centro commerciale che sorge sulle rovine della nostra infanzia. Stasera Ilaria, dal tono della voce, ha intuito i toni di colore del mio cuore e mi ha chiesto di non aver paura. Facile a dirsi, amica mia, ma a ogni angolo di questa città qualcuno mi aspetta dietro l'angolo con sotto braccio un album di fotografie. Mi chiedono monete in cambio di ricordi e io arrivo a sfondare le tasche nella compulsiva ricerca. Alla pietra ho vuotato il petto, ma il cemento a cui è costretto lo sguardo mi attanaglia l'anima. Facile a dirsi quando le cosce delle donne sono l'unico pregio urbanistico e il bagliore azzurro dietro alle persiane decreta il trionfo dello schermo sul discorso e sul vino. Le madonne piangono, lacrime nere, ma nessuno grida il miracolo, visto che è soltanto smog. D'altro canto più oneste, didoli d'oro che rinnovano il prodigio del pianto al sugo di pomodoro. We're going to do now something that has nothing to do with an arranged piece of music. Ventuno e 50, speriamo, io spero che vi siano piaciute, perché a me sono piaciute entrambe molto. Poi il peccato che non c'è abbastanza tempo per poi continuare, anzi dovremmo pure cominciare a pensare a degli spazi anche diversi radiofonici, perché può funzionare uno spazio radiofonico del genere, soprattutto perché tra l'altro questa radio da circa un mese manda anche le favole per bambini, dunque sì, si chiama, se non sbaglio, è il martedì nel primo pomeriggio, poi viene anche replicato perché... Beh, io scrivo delle favolette. Ecco, buona a sapersi. No, comunque no, questo è un invito così a far pensare anche a uno spazio che potesse essere uno spazio veramente di lettura, di reading, musicato, così è assolutamente radiofonico. Avete mai pensato, visto che stiamo nell'era delle pubblicazioni online e via dicendo, è in progetto un programma, un ebook? Un ebook c'è, ci stanno due ebook, due piccoli ebook, sul sito sempre scrittori precari wordpress.com. Uno si chiama Brutti, Sporchi e Precari, se non mi sbaglio, che è il primo libricino che facemmo in forse quanto erano 500 copie che spillammo a casa mia con i vicini di sotto che rompevano e che abbiamo usato per il tour pagandoci anche la benzina e tutto e sono fatti fuori tutti, insomma. GPL vabbè, a benzina GPL. C'è una grossa differenza. Vabbè, comunque siamo arrivati. Vendevamo €1 ai nostri durante il tour e ci abbiamo pagato tutto il GPL. E poi c'è Fiasco, che è il secondo ebook. Ma sono raccolte o? Sono raccolte di racconti. Raccolte di racconti. Ovviamente di più. Di più autori, che poi siamo noi 5, ci sta noi 4 più Alex Pietro Giacomi. E poi c'è il discorso, questo forse un po' più personale, legato all'oralità, non pensate male, all'oralità della poesia, in quanto io per esempio ho difficoltà comunque alla pubblicazione cartacea e quindi preferisco fare anche CD, cioè da mettere in rete e tutto, quindi si leggono già, si ascoltano già, diciamo, cioè un ebook digitale no, perché comunque funzionano in fondo. Ma poi sicuramente l'oralità è proprio quella che ci porta, tra virgolette, diciamo, più consensi, no? Facendo reading abbiamo dato via tanti CD, tanti libri, ci siamo fatti conoscere molto più durante i reading che magari pubblicando con piccoli editori che non ci promuovevano affatto, no? Giusto, assolutamente. No, io non riesco a guardare Luca perché bene o male lo conosco da 16enne. Sì, immaginatelo con ormai ci conosciamo da più di 10 anni, no? Ci incontriamo tra il 97 98 quasi 99 15, sì. Ti vorrei dire tu fai 40 anni. Sì, lo so, di conseguenza no, l'hai fatta Aristella, sono contento perché siamo l'abbiamo fatta diventare famosa, ma poi non l'avevamo preparata, ci siamo incontrati qui. No, io gli ho fatto la trappola. Vabbè, nel passato di tempo, da quando comunque anche quello era un reading in cui sì, era un approccio diretto al calendario. Beh, non, sì, ai nostri reading sì, sono degli approcci diretti al calendario. Al calendario dei santi, ed era non so, una sorta anche qui, anche lì, senza nessuna base musicale, però delle performance abbastanza particolari. Chiudiamo queste... Qualcuno se le ricorda. Queste, sì, in quartiere sicuramente qualcuno se le ricorda. Ma torniamo ad essere seri perché stiamo andando verso la conclusione. Ci siamo rimessi nuovamente in contatto con le galline dell'Umbria e i nostri scrittori precari. Eccoci, buonasera di nuovo a tutti. Visto che girava voce che tu stavi tirando il collo a diverse galline. Così dicono, no, sono invidiosi perché vorrebbero stare tutti qui con me. Io sì, cioè sempre meglio di sta Roma San Lorenzo e penso di sì. Comunque va bene, andiamo verso la conclusione, rilascio il microfono al mio partner. Sì, ciao, abbiamo 5 minuti, ce li abbiamo, ce la facciamo? Ma sì, dai. Va bene, e non so se c'è spazio per un'altra domanda agli ospiti. Ciao, allora, visto che prima sono stati citati gli ebook, come scrittori precari, da quel che so, oltre che di scritture e di letture, si occupa anche di questioni inerenti all'attualità della letteratura e dell'editoria. Fra l'altro ricordo che questo gruppo penso sia uno dei più affidabili per quanto riguarda l'orientamento anche all'interno dell'astrusa giungla dell'editoria italiana, e in particolare per quanto riguarda la lotta contro l'editoria a pagamento. Però in questo caso ero curioso, visto che da qualche anno sta venendo fuori molto prepotentemente questo, diciamo, il tema dell'ebook, no? Il libro digitale, qualcuno dice, è una realtà che scalzerà completamente i libri cartacei, insomma i libri cosiddetti veri e propri spariranno, eccetera, eccetera. Insomma, se ne sente dire un po' ricotte e ricrute su questo tema, per cui ero curioso di sapere a grandi linee, perché siamo un po' in chiusura e forse in realtà l'argomento richiederebbe un po' più tempo e purtroppo non abbiamo, cosa ne pensano un po' i nostri scrittori precari, ecco, della situazione attuale in Italia dell'ebook. Ma io volevo solo dire che la tua domanda cade proprio a fagiolo, perché il 27 e 28 aprile Tor Vergata organizzerà questa 2 giorni sull'editoria digitale, e noi saremo presenti il 27 sera allo spazio Forte Braccio, che sta al Pigneto, dove stiamo lavorando ad alcuni racconti che i lettori leggeranno, perché l'idea di fondo è quella di dare spazio ai lettori, appunto, e dunque, come dire, il mondo dell'editoria digitale come mondo in cui il lettore ha anche più potere sul testo, insomma, questa è una dei tanti aspetti su cui si può discutere. E il 28 poi ci sarà un convegno appunto a Tor Vergata sul self-publishing, che è un altro fenomeno molto emergente. Sì, l'argomento insomma prevederebbe moltissimi minuti che non abbiamo, per cui se vi interessa potete insomma venire a seguirci lì. Rimandiamo insomma all'iniziativa. Siamo assolutamente 27, contro giusto. L'editoria a pagamento, meglio non 27 pubblicare. Aprile, giusto? 27 e 28 magari aprile. Ci andiamo a risentire anche nei giorni precedenti e andiamo a presentare anche un po' meglio. Va Beh. Bene, e per cui direi che intanto possiamo anche salutare gli ospiti, perché penso che siamo veramente arrivati in chiusura, per cui... Forse Andrea vuole dire una cosa. No, no, nulla. Perché noi a teatro ci torniamo in realtà. A parte il discorso degli ebook, insomma, vabbè, personalmente sono favorevolissimo agli ebook. Non credo che che distruggeranno mai, sì, il, dai, libro, smettiamo, cioè l'ebook è amico del libro di carta, dai, non sono dei nemici, okay. Cioè sono l'ebook è il migliore amico del libro di carta, sì, secondo me sì, insomma, anche, ma anche il discorso prima abbiamo citato Terra Nullius, insomma loro fanno anche un discorso su sulla diffusione libera delle opere, dei libri, tutti i loro libri sono scaricabili, quindi visibili dal computer, da come si chiamano, l'iPod, come si chiamano questi cose, questi lettori, questi aggeggi, sì. E poi niente, diamo anche un altro appuntamento che è il 6 maggio al Teatro Colosseo con lavoratori, com'era, artisti diversamente occupati, mi pare che si chiami, sì, una cosa del genere, dove saremo 8 tra lettori, musicisti, danzatori, chitarristi, insomma artisti, saltimbanchi, e per uno spettacolo collettivo. Questo è il 6 maggio. Ma facciamo concludere Liguori, che sennò cosa abbiamo chiamato a fare? Ma Liguori non c'è, cioè Liguori ci sono, ci sono. Eccolo. Dai, di le ultime parole. E io vi porto il prossimo appuntamento qui a Friulandia il 25 aprile, facciamo la festa della liberazione dei Quando Friuli. Quando? Il 25 aprile. Ah. Ma ci stanno le galline? Uova fresche? Se sopravvivono ai miei brodi o a quelli di Sparagna sicuramente. Va bene. Beh, allora ci vediamo il 25 aprile. Siamo qui che vi aspettiamo, voi e tutti gli ascoltatori di Radio Onderusta. Perfetto, 25 aprile a Friulandia. Allora auguriamo sogni d'oro a Gianluca. Buonanotte. Buonanotte a tutti e no, io vado a Ciao lavorare, Gianluca, grazie. Ancora un po' di pacchi da ingabbiare. Ciao. Ciao a tutti.